occhi miei perché non cerchi mai l'amore che può illuminare ancora gli occhi tuoi. Lei se ne va. Non ti vuol bene ed ora tu lo sei, ma se tu vuoi io riprenderò il mio posto accanto a te. Chi si vuol bene non si lascia mai. Ora tu sai che cosa costa la se ne va, non ti vuol bene.